Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Ogni domenica alle 12 su Controradio e nel quinto elemento su controradio.it. Contatti restiamoanimali@controradio.it. Buongiorno, buongiorno, 52esima puntata di Restiamo Animali. Quella di oggi è l'ultima puntata di Restiamo Animali in questo 2012. Visto che la fine del mondo prevista non si è verificata, andremo avanti con le nostre trasmissioni in versione lunga, domenicale e breve, giovedì mattina e pomeriggio, raccontandovi il lungo cammino che la civiltà umana deve ancora compiere per riconoscere diritti e dignità ai nostri amici e fratelli animali non umani. Un pensiero, l'ultima puntata di questo 2012, alla nostra carissima amica Sabrina Sganga, che abbiamo perso il 5 maggio di questo anno, che finalmente termina, ma non termina, il nostro affettuoso e nostalgico ricordo di lei. In studio oggi con voi Camilla Lattanzi, Lorenzo Guadagnucci, Silvia Vallecchi e Valentina Reggioli. Vogliamo concludere le trasmissioni del 2012 ricapitolando l'anno che si sta concludendo dal punto di vista delle buone notizie sul fronte animalista. Questi sono i passi avanti fatti a favore degli animali. Cominciamo con i circhi. I paesi che hanno bandito i circhi con animali sono numerosi. Tra questi ricordiamo la Grecia, la Bolivia, la Croazia, la Bosnia Erzegovina, l'Austria, la Repubblica Ceca, la Danimarca, l'Estonia, la Finlandia, l'Ungheria, la Polonia, il Perù, il Portogallo, la Svezia, Singapore, la Costa Rica, l'India e Israele. Leggi simili sono in discussione anche negli Stati Uniti, in Brasile, Cile e Colombia. Manca ancora l'Italia, ovviamente, ma ci sono molti comuni che hanno bandito i circhi con animali con ordinanze dei rispettivi sindaci. Citiamo i comuni di Brindisi, Imola, Modena, Ferrara, Parma, Cagliari, Alessandria, Fiumicino, Narni, Grosseto, Campobasso, Pordenone, Carmagnola, il municipio 4 di Roma, Ciampino, Pioltello e da ultimo Pistoia. Un altro passo avanti, un passo gigantesco fatto nel 2012 è stata la dichiarazione di Cambridge sulla coscienza animale. Un gruppo di eminenti scienziati di tutto il mondo ha firmato la dichiarazione nella quale si dice che gli animali sono esseri con coscienza. Il gruppo è composto da scienziati cognitivi, neurofarmacologi, neurofisiologi, neuroanatomisti, neuroscienziati computazionali, tutti quelli che erano presenti durante la conferenza al Francis Crick Memorial, una conferenza sulla coscienza in umani e non umani. Quindi è molto importante il fatto che questa dichiarazione sia stata sottoscritta in presenza di uno scienziato del livello di Stephen Hawking, e tra i firmatari ci sono Christoph Koch, David Edelman, Edward Boyden, Philip Lowe e molti altri famosi scienziati. I firmatari dicono: l'evidenza scientifica indica sempre di più che gli esseri umani non sono gli unici a possedere i substrati neurologici che generano coscienza. Per darvi un'idea dell'importanza rivoluzionaria di questa dichiarazione, va forse spiegato cosa significa avere coscienza. Avere coscienza significa fare esperienza soggettiva di eventi o sensazioni, saper scegliere tra più opzioni e in particolare saper distinguere tra il bene e il male, separare l'io dal mondo esterno, quindi avere un senso della propria soggettività. Gli animali umani tendono a credersi l'unica specie dotata di coscienza. E la specie umana ha sempre giustificato la macellazione, la vivisezione, la caccia e mille altre forme di sfruttamento, accampando a sua discolpa tale primato. Dalla dichiarazione di Cambridge non potrà più essere così. E per quanto riguarda l'Italia, dobbiamo ricordare anche della parziale vincita nei confronti di Green Hill, l'allevamento produttore di Beagle. Ricordiamo che al momento Green Hill ha sospeso la sua attività, purtroppo ancora non ci possiamo ritenere soddisfatti perché Green Hill non è stato chiuso per sempre, però possiamo ritenerci soddisfatti per il fatto che circa 2500 cani hanno potuto vedere per la prima volta la luce del sole e non soltanto la luce artificiale. Visti da vicino. Non mangio mai qualcuno che conosco. Per la rubrica Visti da vicino, non mangio mai qualcuno che conosco di oggi, poiché siamo a fine anno e abbiamo scelto di concluderlo positivamente, abbiamo scelto due storie a lieto fine che hanno per protagonisti fortunati animali che hanno trovato persone sensibili e generose che non si sono girate dall'altra parte e hanno scelto di occuparsi dei più deboli tra i deboli. La prima storia è ambientata in Messico e la seconda in Italia. Tra le belle notizie con le quali vogliamo concludere questo 2012 c'è senz'altro la storia di Bibi. Parte da una storia di turismo, da un colpo di fulmine che può nascere tra animale umano e animale non umano. Simona, ciao. Ciao Camilla. Allora, racconta agli ascoltatori cosa ti è successo quest'anno. È successa una cosa un po' complicata, però anche meravigliosa. È successo tutto con un viaggio che abbiamo intrapreso io, Giuliano e un'altra amica. Siamo andati in Bassa California, quindi la California messicana, per andare a vedere il passaggio, anzi l'accoppiamento delle balene che arrivano dall'Alaska e vanno in questa baia a riprodursi. In una piccola cittadina che è Loreto, era un giorno molto caldo, ho visto accucciato sotto la porta della chiesa un piccolo cane. Gli ho fatto una foto che poi ho cancellato subito perché ho detto no, poi la rivedo, ci sto male. Avevi avuto un pensiero premonitore. Sì, forse sì. Poi abbiamo continuato il nostro giro e a Loreto siamo tornati dopo 3-4 giorni. Sulla stessa strada, ecco un'altra volta questo piccolo cane, che poi era più un ammasso poverino di pelo, ossa, con una gambetta, si vedeva, rotta o almeno zoppo. E quello che faceva veramente impressione era che si raccomandava a tutti. Cercava il contatto con le mani, proprio a voler chiedere, si vedeva che proprio aveva veramente fame. Sgomento, no? Poi questo senso proprio di compassione. Brava, fino a che non vedo un ristorante con davanti un cane, un bel cane grosso, un molossoide. Lì sicuramente ci sarà qualcuno, no? Che gli animali in qualche modo li ama. Mi faccio seguire dalla cagnolina e la porto da questo ragazzo, dal titolare di questo ristorante. Gli dico: guarda, per favore, puoi dare mangiare a questo piccolo cane? E lui sì, tranquillamente l'ha fatto e ha detto che l'avrebbe fatto anche nei giorni seguenti. Gli lascio le nostre mail, quella mia di Giuliano, gli chiedo se appunto nei prossimi giorni poteva farci sapere qualcosa. Continuiamo il viaggio sperando di ricevere qualche notizia, no? Sui cellulari, su internet. Invece niente. Passano i giorni, niente. E passano giorni e invece io e Giuliano si continuava a pensare a questo piccolo cane. Giuliano ha un'idea, cerca su internet qualche veterinario, un'associazione, qualcuno che ci potesse in qualche modo aiutare a ritrovarla, no? E lì è successo un po' il miracolo. Lì ha trovato questa signora Linda, che segue insieme a sua cognata un'associazione per gli animali, che è Animalandia, lì in Bassa California. E Linda abitava lì a Loreto. E Linda, quindi, grazie a una foto che poi mi avevano fatto con la piccola messicanina, è riuscita a trovarla dopo due giorni. L'ha trovata che era alla stazione degli autobus, era un fagottino messo da una parte, l'ha presa, se l'è portata a casa e l'ha tenuta con sé, l'ha ritirata un po' su. Poi dopo il bello è stato che abbiamo voluto prenderla, no? E quindi Giuliano ha deciso, insieme a sua zia Valeriana, di partire. E quindi è partito, sono partiti e sono arrivati là. È stato un viaggio abbastanza rocambolesco, sì. Però insomma sono riusciti a portare sana e salva la Bibi, che ha fatto 3 voli aerei, insomma, molto lunghi. 4 di giugno è arrivata qui all'aeroporto di Roma. Quindi da cane di strada mendicante a turista borghese in aereo, ben tenuta, coccolata. E adesso la vedo perché Simone è venuta nei nostri studi con Bibi. È in gran forma questa cagnetta dolcissima, sta in braccio a Simona, le dà i baci ed è la quintessenza della dolcezza e della bontà canina. Sembra un incrocio tra un cane e un coyote, bellissimo muso scuro che poi degrada in un color miele, direi, e le orecchie scure. E che carattere ha Bibi? Ha un carattere spettacolare. Io una settimana prima che lei arrivasse, di notte mi svegliavo e pensavo: oddio, i gatti, i piccioni, arriva il coyote, mi mangerà tutto, sarà una tragedia. Invece da subito è stata buonissima. Io penso di conoscerla un po' da sempre, no? Come poi succede per i grandi amori. È stata una cosa magica, quindi. Sì, sì, sì. È veramente una messicanina magica. Era già nella tua vita in qualche modo. Probabilmente sì. Che cosa dici alle persone che sentono di avere un colpo di fulmine per un animale? Beh, a me è successa questa cosa a 10.000 km di distanza, ma mi accadono cose simili anche qui. E quindi dico senz'altro che non c'è bisogno poi di fare 10.000 km, no? Basta guardarsi intorno e via via cercare di fare qualcosa per quelle anime che poi troviamo, che siano uomini, che siano animali, e cercare quindi di aiutare quello che ci arriva sulla nostra strada. Vediamo se facciamo dire un bau bau. È difficile, è tranquillissimo. È troppo buono, niente, nessun bau bau a questo giro. Però metteremo delle foto per testimoniare che Bibi è stata qui negli studi con noi. E vorremmo che questa storia ci insegnasse come comportarci nel 2013, il prossimo anno che sta per arrivare. Visto che c'è crisi, gli animali verranno abbandonati e noi saremo ancora più attivi, ancora più presenti per cercare di non far pagare a loro i nostri errori. Grazie a te, Camilla. Grazie, Simona. Ciao. Ciao. Sono al telefono con Micaela Torlai, una delle fortunate persone che si sono aggiudicate un cagnetto di Green Hill, un Beagle. Ciao Micaela. Ciao, ciao a tutti. Qual è stato il momento più bello per te, il più emozionante da vivere nella fase della liberazione dei cani? L'emozione più grossa è stata quando abbiamo visto uscire i cuccioli di Green Hill, le fattrici, che sono stati come degli angeli che volavano dal filo spinato. Quindi lì è stata un'emozione forte, perché vedevi la gente che piangeva dalla felicità. E io stessa ho pianto per quasi una settimana, perché tutti i giorni accendevi la televisione, parlavano in tutti i telegiornali della liberazione dei Green Hill, e io, avendola vissuta di prima persona, piangevo, non facevo altro che piangere. Quindi è stata una cosa bellissima. Ti sei resa conto di essere stata parte di un movimento che ha fatto storia con questa liberazione? Sì, sicuramente, anzi è stata un'esperienza anche di vita mia personale che mi ha insegnato molto e mi ha cambiato molto. La mia Ariel, l'ho chiamata Ariel, che sarebbe un angelo rosa che protegge gli animali, i cani. L'ho voluta con tutte le mie forze. Io abito in Toscana e sono stata in 10 giorni per 3 volte a Montichiari con la macchina. Nel momento in cui l'ho presa ho pianto, perché quando l'ho toccata è come toccare un oggetto freddo. Camminare, correre, mangiare, scodinzolare, qualsiasi cosa, lei non faceva niente di questo. A parte l'ho presa, mancavano 2 settimane a partorire. Micaela, diciamolo, tu hai preso non un cane, hai preso una fattrice sì, incinta. Io ho voluto una fattrice incinta, sì, perché tutti volevano il cucciolino, tutti tendevano a prendere il cucciolino piccolino, invece io so di quanto hanno sofferto le fattrici, il tempo che sono state lì dentro senza mai vedere la luce del sole, senza respirare l'aria pura. Io quando l'ho portata in macchina, la mia Ariel è stata da Montichiari fino in Toscana a respirare a polmoni pieni, perché non sapeva che cos'era l'aria. Io ho voluto proprio una fattrice perché sapevo che c'aveva tanti problemi a livello psicologico, voleva conoscere il mondo, era giusto aiutarla. Poi il parto è andato bene, ha partorito con 12 ore di travaglio, è stato un parto lunghissimo, i cuccioli meravigliosi sono nati e per darli via non ho avuto nessun problema, perché anzi avevo molta gente, molte richieste, però io ho selezionato le persone perché tutti tendevano a andare dietro alla moda dei bigoli, no? Dei bigoli di Green Hill. Dici come sta oggi Ariel e come vive con te questa sua nuova libertà? Adesso è felice, sta insieme alla mia cagnolina che si chiama Lucy, giocano, dormono insieme, è molto affettuosa, lei chiede sempre contatto fisico e mi guarda sempre dritta negli occhi. Dovunque vado, in mezzo alla gente, lei mi guarda sempre. La porto con me in macchina, portiamo mio figlio a scuola, andiamo a fare la spesa. È una vita normale. Per lei personalmente sono stata io il suo angelo, però siamo stati tutti noi attivisti, gli angeli di Green Hill, siamo stati tutti noi. Allora Micaela, concludendo, restiamo animali? Restiamo animali. wonderful, it's wonderful. I dream of you, chips, chips, chips. Da-di-do-di-do, chi-boom, chi-boom. Da-di-do-di-do, chi-boom, chi-boom. Animal House. Notizie, interviste, attualità. Al presidio che si è tenuto davanti alla Questura di Firenze il 15 dicembre scorso, ricordiamo per protestare contro il finanziamento della Regione Toscana alla Novartis di Siena, abbiamo avvistato anche il consigliere regionale Mauro Romanelli. Ho appreso che i 23 milioni di euro non verranno stanziati almeno fino al 2014, ma questo soltanto per mancanza dei fondi. Come la dobbiamo leggere questa notizia? Positiva o negativa o neutra? Prima approssimazione è positiva perché è un piccolo sospiro di sollievo. Non credo che ci sia stato un ripensamento almeno da parte della regione dovuto alla sensibilità sugli animali, questo purtroppo devo dirlo. Forse qualche piccolo ripensamento della Novartis anche legato alle proteste, forse sì, quindi diciamo che comunque protestare e farti sentire serve sempre ed è importante continuare a farlo. Quello che c'è di buono è che siamo andati il giorno prima del presidio in delegazione a incontrare la segreteria del presidente Rossi e l'assessore alla sanità Marroni, insieme alla dottoressa Candida Nastrucci, che è una ricercatrice italiana che però è stata anche all'estero e che si occupa di tecniche di ricerca sostitutive rispetto all'uso di animali. Ecco, siamo andati a parlare con l'assessore, c'è una disponibilità a ragionare in termini di ad esempio di istituire un corso di laurea su queste tecniche sostitutive o addirittura un centro di ricerca, quindi un minimo di interesse c'è. Ci hanno detto che quando ci sono state le proteste per email degli animalisti, loro hanno comunque convocato la Novartis, si sono fatti spiegare il tipo di ricerche che facevano e gli hanno risposto praticamente che tutta la parte per preparare il vaccino eccetera è tutta fatta al computer con tecniche senza animali. La questione è la questione legale che prescrive ancora per i test clinici, cioè prima di mettere in commercio test sugli animali. La dottoressa Mastrucci ha detto che in realtà se uno dimostra è valida una tecnologia alternativa anche la legge permette di non usare animali, però diciamo che per un'azienda è un po' più complesso forse il percorso, quindi se anche la parte pubblica, la regione eccetera finanzia ricerche alternative in qualche maniera può aiutare anche le aziende che non è che sono buone ma magari sentendo anche la pressione delle proteste potrebbero essere comunque interessate a incamminarsi su questa strada. Quindi a volte le proteste servono, insomma? No, le proteste servono sempre. Infatti è stato bene fare il presidio lo stesso, perché comunque si sensibilizza alla cosa andata sui giornali, sulle televisioni, oltre sulla radio ovviamente. Quindi. E per il fatto che la Novartis recentemente è stata, diciamo, anche costretta a ritirare un lotto di vaccini proprio perché validati male, non si è speso qualche parola a riguardo? Ma è la dimostrazione ulteriore che i test sugli animali sono inaffidabili. Io recentemente tra l'altro ho incontrato un professore che lavora sulla tossicologia chimica, interessato a queste cose, un professore dell'Università di Firenze, una persona da anni impegnata sull'inquinamento ambientale, sulla tossicologia eccetera, che ha anche fatto in passato esperimenti su animali. Però è una persona diciamo che ha interesse anche a cambiare le cose, mi ha detto che effettivamente ha ammesso che i test sugli animali sono inaffidabili e imprecisi come anche altri test che ci sono ora, diciamo il test perfetto non esiste, però si può sicuramente migliorare, insomma ecco, fare su animali è anche un po' un'abitudine, un qualcosa che ci si porta dietro dalla scelta dei primi del Novecento, ma insomma ecco. Ora mi ha detto che si stanno anche molto affermando tecnologie alternative, bisogna un po' superare alcune resistenze conservatrici, culturali del mondo scientifico e anche degli interessi evidentemente. Certo. Che cosa ci dobbiamo aspettare quindi da qui al 2014, anno in cui forse verranno stanziati, se verranno trovati i soldi, ripensamento? Ma io credo che questi soldi non verranno più trovati purtroppo perché c'è la crisi. Forse la cosa migliore è che venissero trovati e investiti ricerca più avanzati. Comunque io credo che questi soldi, questo progetto Novartis non vada in posto, questa è la mia sensazione, però non c'è solo il progetto Novartis, c'è anche la quotidiana che viene fatta nell'università, negli ospedali. Certo. In Toscana è purtroppo un per animali, quindi la disponibilità in qualche maniera di sperimentare, di aprire questi nuovi orizzonti anche scientifici, perché poi si dice che chi protesta per gli animali insomma è contro la libera scienza. In realtà, ecco, se si cerca di porsi anche il problema etico e quindi si aguzza l'ingegno per vedere anche i problemi scientifici sotto altri punti di vista, quindi si cerca di studiare le cose in maniera alternativa, questo fa bene alla ricerca e alla scienza, non fa male. Fra l'altro, per sviluppare tecniche di ricerca senza animali ci sono anche molti fondi europei, quindi non è vero che queste sono cose contro la scienza e contro il sapere scientifico, anzi, possono aprire nuove strade, nuove prospettive di ricerca. Certo, lo crediamo anche noi. Grazie Mauro, restiamo animali? Restiamo animali. Il Comitato Animalista di Prato informa che la provincia di Prato sta per attuare un cosiddetto piano di abbattimento selettivo delle nutrie. I tecnici dell'ente dicono che il numero di nutrie presenti sul territorio è eccessivo e che le tane scavate in prossimità dei corsi d'acqua metterebbero a rischio la stabilità degli argini in caso di piena. Sulle nutrie, è noto, si concentrano molte dicerie, si dice che siano veicoli di gravi malattie, che scavino canali profondissimi, che attacchino coltivazioni. La nutria è un roditore originario del Sud America e fu introdotto in Italia negli anni 20, in allevamenti finalizzati ad utilizzarne la pelliccia. Quando il mercato della pelliccia è entrato in difficoltà, molti esemplari sono stati liberati e la nutria è entrata a far parte della fauna selvatica. Come riporta un accurato documento preparato dalla sezione fiorentina della LAV, la nutria è un roditore dal carattere docile e in molti paesi, come gli Stati Uniti, è un animale da compagnia, scava cunicoli piuttosto brevi e superficiali. Ed non è affatto pacifico che siano le sue tane a indebolire gli argini, minati piuttosto dalla rimozione della vegetazione e degli arbusti spontanei. E nonostante le dicerie, non esistono casi documentati di malattie trasmesse dalle nutrie agli esseri umani o agli animali domestici. Gli animalisti pratesi hanno lanciato una petizione, reperibile in rete e sul nostro sito, per chiedere al presidente della provincia, Lamberto Gestri, di fermare il piano di abbattimento e di scegliere, se davvero necessario, tecniche alternative di contenimento che sono facilmente accessibili e hanno effetti di lunga durata, fermo restando che la protezione delle argini richiede soprattutto interventi di ingegneria naturalistica. Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà. Triste col suo bicchiere di Barbera, senza l'amore al tavolo di un bar. Ciao a tutti, sono Sara e oggi vorrei parlare del menù di Capodanno. Se sarete voi a dovervi occupare del tradizionale cenone e magari avrete ospiti carnivori, non vi preoccupate e non fatevi prendere dal panico. La cucina vegana offre una scelta davvero sconfinata di deliziosi piatti, festosi e succulenti, che tutti ameranno. Vogliamo essere tradizionalisti a tutti i costi? Benissimo! Gli alimenti che si dice portino fortuna e prosperità, se mangiati quella sera, sono le lenticchie e il melograno. E guarda caso sono vegan! Allora, progettiamo insieme un menù che sia gustoso, invitante, ma allo stesso tempo salubre, economico e chiaramente non violento. Si comincia sempre con antipasti e stuzzichini vari, e qui non c'è che l'imbarazzo della scelta. Potete preparare in anticipo diversi tipi di hummus, quello classico di ceci, quello di cannellini, quello delizioso di piselli e pomodorini secchi, e diverse creme, di zucca, di carciofini, di semi di girasole. Una volta pronte, poco prima dell'arrivo degli ospiti, farete brustolire pochi minuti nel forno dei crostini di pane casereccio. Li spalmerete con le creme e li guarnirete con olive, capperi, noci, funghetti. Sbizzarritevi! Le stesse creme potrete servirle anche su foglie di radicchio a mo' di coppetta, oppure in ciotoline monoporzione, accompagnate da nachos o piccoli cracker. molto gustosa e allegra, non fatevi mancare l'insalata russa. Non comprate però quelle tristissime macedonie di verdure in barattolo, ma cuocete a vapore per qualche minuto le vostre verdure preferite tagliate a cubetti e una volta raffreddate le amalgamate ad una maionese vegan fatta da voi. Ah, tutte le ricette che vi dico le potrete trovare sul mio blog. L'insalata russa potete servirla in piccole monoporzioni oppure come ripieno per dei boulevon di pasta sfoglia. Buonissimo, ho già fame. Termino la carrellata degli antipasti con cubetti di torte salate, quelle che più amate, agli spinaci, ai funghi, al radicchio e noci, ai porri e patate. Proseguiamo con un bis di primi. Io farei una pasta dal sugo importante, tipo un ragù di verdure miste, oppure bietoline, panna e noci, oppure funghi e piselli. Per l'altro primo starei su qualcosa che potete preparare in anticipo, tipo dei cannelloni o i pizzoccheri o uno sformato di miglio gratinato. Come secondi, perché non rendere le lenticchie da semplice accompagnamento a piatto forte della serata? Magari preparando un bel polpettone, che taglierete a fettine, accompagnato da contorni misti come purè di patate, zucca arrosto, spinaci saltati in padella. Non facciamoci mancare una bella insalata mista, magari guarnita con chicchi di melograno, che rinfresca i palati e alleggerisce le pance. E concludiamo con i dolci. Possiamo presentare una splendida torta sacher, bella piena di marmellata e cioccolato, fettine di salame dolci e piccoli bicchierini di crema alla pera e nocciola. Se qualcuno avesse ancora fame, una bella coppa piena di macedonia con frutta di stagione concluderà splendidamente il vostro cenone, lasciando a tutti i commensali la pancia piena e la coscienza pulita. Io vi faccio i miei più cari auguri di passare delle feste serene con le persone che amate ed iniziare con gioia e speranza il nuovo anno. Ciao! Passate già quasi tre ore, venga che abbiamo i tavoli, signor. Voglio cantare e dimenticare coi nostri vini. Perle agli umani, letteratura per la liberazione. Restiamo animali adesso non è più soltanto il titolo della nostra trasmissione. È anche il titolo di un saggio che troverete in tutte le librerie. Edito per Terre di Mezzo, Restiamo animali è il libro del nostro collaboratore Lorenzo Guadagnucci. Il sottotitolo del libro è Vivere vegan è una questione di giustizia. Lorenzo, prima di addentrarci nei contenuti del libro, due parole su di te. Che relazione ha il fatto che tu sia stato in gioventù un obiettore di coscienza con questo percorso che descrivi nel libro? La relazione è molto stretta, perché la mia scelta di allora, quella di rifiutare il servizio militare, di optare per il servizio civile, aveva molto a che fare con un certo tipo di attitudine verso il mondo. Era il mio modo di avvicinarmi alla non violenza, che col tempo ha assunto anche altre forme, fra le quali quella di diventare vegetariano ormai più di 20 anni fa. E oggi c'è un'altra fase che mi ha portato a fare sia una scelta più risoluta sul piano alimentare, quindi la scelta vegan, ma soprattutto anche di addentrarmi finalmente nella visione antispecista del mondo, e questa è la cosa che poi alla fine racconto nel libro. Il libro comincia così. Hai presente una tonnara? Era il 24 luglio 2001 e risposi con queste parole alla domanda iniziale della mia prima volta da intervistato. Stai qui descrivendo quello che ti è successo a Genova, G8 2001, quando, per un caso della vita, ti sei trovato nella Diaz proprio in quella notte. Come mai il libro comincia proprio da qui? Comincia proprio da qui perché il tema del libro è una visione del mondo, della politica, del rapporto con tutto ciò che ci circonda, che sposa un punto di vista allargato, che non è più solo quello dei diritti umani, dei diritti civili, della tutela quindi dei diritti fondamentali, ma un allargamento dello sguardo a tutti gli altri esseri viventi. E per me è stata una riflessione anche a ritroso quella di andare a ricordare, mi è venuto in mente a un certo punto che nella mia prima intervista dopo la scuola Diaz, per descrivere quello che mi era successo, accostai la mia esperienza a quella che vivono i tonni nelle tonnare. E effettivamente questa è una relazione sulla quale riflettiamo molto poco, il fatto che siamo anche noi degli animali e che nelle situazioni di costrizione, di oppressione, le differenze sfumano fra l'essere umani o non essere umani. E che è proprio la condizione del dominio, dell'oppressione, quella che dobbiamo combattere per la liberazione sia dei nostri fratelli animali, ma anche degli oppressi, di quegli uomini e quelle donne che subiscono situazioni di oppressione. Hai incontrato ostilità da parte delle persone da quando hai cominciato a fare una scelta più radicale rispetto al tuo essere vegetariano di 20 anni prima? Un po' sì. Questo è una scelta che crea dei problemi, perché ha a che fare evidentemente con questioni morali, etiche di fondo, e quindi ogni persona che si deve confrontare con qualcuno, in quel caso io, che ha compiuto una scelta di questo tipo, finisce per sentirsi in difficoltà. Anche se devo dire che per me il punto chiave non è la scelta vegana, non è l'alimentazione. Per me la cosa veramente importante è la tutela degli animali e il includere gli altri animali nell'ambito degli esseri viventi che hanno diritto al rispetto, ad avere una vita dignitosa e libera. Questo è anche un po' il senso del titolo. Restiamo animali si richiama un po' alla figura di Vittorio Arrigoni e alle sue cronache da Gaza sotto l'attacco dell'esercito israeliano. Concludeva le sue cronache dicendo: restiamo umani, proprio per dire che c'era un qualcosa di prezioso, di imprescindibile da salvaguardare. La mia idea è che questa visione debba essere allargata anche agli altri animali, e questo è un punto difficile da affrontare oggi anche in ambito politico, però credo che sia anche il compito che abbiamo. Lorenzo è infatti l'autore anche del titolo della nostra trasmissione, evidentemente covava già in lui l'idea di scrivere un libro forse con questo titolo. Il libro Restiamo Animali è dedicato alla memoria di Sabrina Sganga. Che rapporto ha questo libro con la tua amicizia con Sabrina? È un rapporto molto stretto, perché questo libro è stato concepito, è stato scritto, si può dire, in parallelo con la malattia di Sabrina, e ogni pagina è stata scritta pensando anche a lei, sapendo anche quanto lei tenesse a questi temi. Purtroppo non c'è stata mai per noi l'opportunità di parlarne, di affrontare davvero questo argomento, perché in quella fase la malattia ha preso il sopravvento. Però ecco, io credo che Sabrina sarebbe una lettrice attenta di questo libro e sentirò la mancanza del fatto di non poter discutere con lei di questi temi. Ti ringrazio e ripeto il titolo, Restiamo Animali, di Lorenzo Guadagnucci. Vivere vegan è una questione di giustizia, edito per Terre di Mezzo. Ancora incerti sul da farsi per il veglione di domani sera? In fuga dagli inviti di parenti e amici che vi proporranno arrosti misti e rosticciane? Nessun problema! Vi annunciamo due eventi che potete ancora prendere in considerazione. Affrettatevi, ci sono ancora pochi posti per il veglione di fine anno Vegan Novo. La parola dice tutto, sarà un cenone vegano e una festa di fine 2012 indimenticabile, organizzata da due grandi chef e attivisti per i diritti degli animali. Il tutto si svolgerà a Certaldo. Per prenotazioni, vegannovo con due n @gmail.com. Lo stesso giorno a Grosseto c'è la pizzata vegan benefit per l'associazione di idee Onlus. Metteremo nel nostro blog il link con il relativo evento Facebook. Fotografie, ricette, interviste, video satirici, approfondimenti e il podcast di questa e di tutte le precedenti puntate nel nostro blog restiamoanimali.wordpress.com. Info e suggerimenti a restiamoanimali@gmail.com. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo Animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Ogni domenica alle 12 su Controradio e nel quinto elemento su controradio.it. Contatti restiamoanimali@controradio.it.